La forma dell'acqua, musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. E ben ritrovati allo spazio che prende la forma dell'acqua dalle 10.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, e oggi venerdì 15 novembre si raddoppia con i suoni, gli stili e le visioni, ma soprattutto le emozioni. Infatti si parte con lo Special Twice, con una gran bella coppia di lunghi. Ai microfoni William Piana e Elisa Iacobucci, un buongiorno e benvenuti in questo venerdì con la vostra coppia di lunghi. Oggi non farete molta fatica a tenere le gambe ferme, perché ci sarà una musica da ballare, da ascoltare nel profondo della vostra anima, perché oggi parleremo proprio di soul. Eh sì, si parla di anima e si ritorna agli albori della nostra trasmissione. Ricordi quando con lo Special Summer facevamo delle relazioni con tutto ciò che sono i nostri generi preferiti? Abbiamo fatto il Latin, il Jazz, l'Easy Listening. E beh, ci manca qualcosa che sia ovunque. È una cosa che è davvero ovunque e che racchiude un po' i generi che a noi piacciono tanto, perché si parte dalle origini, un po' gli elementi che facemmo la settimana scorsa. Invece di tornare alle origini della terra, ritorniamo alle origini del suono, e quindi il soul sicuramente racchiude tutto quello che poi ha commissionato e eseguito ogni genio della musica. Assolutamente, varie realtà, dalle nascite alle denominazioni che variano, che le sono oltre alle sonorità anche dall'aspetto geografico, da dove nascono, da dove si sono, diciamo così, divulgate. Insomma, di novità e di cose ce ne sono tante da dire, ma anche tanto, tanto da ascoltare, e quindi si parte! Let me tell you about a place somewhere up a New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist a while. Dancing with the older queen, who's dolled up in her diamond rings and twisting the night away. Man, you ought to see her go twisting to the rock and roll. Here you find the young and old twisting the night away. They're twisting, twisting, man. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. Twisting the night one more time. Ok, ok, stop alle danze per un momento, per qualche minuto, per ricordare che siete all'ascolto dello Special Twice sui 103.1 Radio Città Fujiko. E si trasforma in una ballroom improvvisamente il nostro studio, con William Piana e Elisa Iacobucci, ricordando anche che possiamo ricevere i vostri sms al 333-180-9494. Ricordiamo anche la nostra pagina Facebook Special Twice. Oggi delle immagini un po' speciali, perché ho voluto ricordare questi grandi artisti tramite un po' delle immagini dipinte, un po' disegnate. Arte nell'arte. Arte nell'arte, esatto. Eh beh, quindi non perdetevele, andate a cercare la pagina su Facebook. Anche perché ci hai già abituato molto bene, diventiamo sempre più severi. Cerco di viziarvi, cerco sì, di viziarvi. Ci hai abituato benissimo, ricordo che per tutto quello che riguarda lo style all'interno della pagina Facebook, dell'immagine, Elisa ha veramente una marcia in più, il valore aggiunto alla nostra trasmissione. Allora, siamo partiti con Sam Cooke. Un genio, ci piace coccolare i nostri ascoltatori sì. Partendo dal meglio, da insomma il re davvero, ovviamente non l'unico a cui bisogna attribuire la paternità di questo genere musicale, ma sicuramente è colui che è stato uno dei più importanti interpreti in assoluto di questo genere soul. Sì, assolutamente, anzi io essendo tifoso, essendo un po' di parte, confesso che invece lo ritengo proprio il padre fondatore in assoluto, ma non ascoltatemi in questo caso perché io ho un'emozione, a casa addirittura ho un altare dedicato a Sam Cooke, non sto scherzando, strano che tu non lo sappia visto che hai una webcam all'interno del mio salone. Sì, non so, ho questa preveggenza per la tua casa che non ho mai visto, ma so dove sono collocati i tuoi dischi, sì, il tuo divano, ogni cosa. Dove sono in questo momento le mie gatte? Allora, sul letto più o meno. Sì, perché staranno dormendo sicuramente. Ho l'ascolto di Radio Città Fujiko, ogni tanto le vizio anch'io con della buona musica, perché ovviamente per la loro tranquillità sentono la voce del papà. E sembra che sia lì con loro. Pensa come ci si riduce ad avere degli animali domestici. Beh, però intanto gli animali non si sa come, ma apprezzano. Lo vedi proprio che si sanno rilassare quando c'è della buona musica a coinvolgere, a creare un buon sottofondo. Sì, si realizzano e si coinvolgono assolutamente. Allora, torniamo a Sam Cooke. Clarksdale, 22 gennaio del 31, muore giovanissimo, ucciso l'11 dicembre del 1964. È stato considerato da alcuni produttori il più grande cantante di tutti i tempi ed è considerato da me altrettanto, ed è considerato il re del soul e a parere di altrettanti produttori l'unico fondatore di questo genere. Per me la sua caratteristica più importante è che riesce a portare fuori queste sonorità di gospel dalle chiese e le rende piacevolmente profane. Tra l'altro Cooke è anche tra i primi a firmare personalmente le proprie canzoni, e infatti è una cosa importante anche perché è riuscito a dare una propria firma personale, e anche tra i primi artisti di colore a occuparsi proprio degli aspetti imprenditoriali della sua attività. E insomma, mica male per i tempi, ricordiamo anche proprio il legame, la crescita a livello di diritti civili che c'è, che lega gli artisti a questo genere musicale. E all'indipendenza ovviamente, non solo come artisti ma anche come imprenditori. Erano tempi duri, tempi differenti dagli attuali in senso peggiore ovviamente, ma Sam Cooke riesce a lanciare non solamente una grande capacità imprenditoriale ed indipendenza, ma anche un messaggio molto positivo. Beh, Elisa, sei preparatissima su Sam Cooke. Ti faccio cantare e soprattutto ballare un altro brano. Everybody loves the cha-cha-cha. Little children like the cha-cha-cha. They like the cha-cha-cha. They like the cha-cha-cha. Ooh. Everybody likes the cha-cha-cha. Took my baby to the hop last night, and what to my surprise, when we got there, she hit me with the news right between the eyes. Yeah, she said she couldn't do the cha-cha-cha. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She couldn't, no, she couldn't cha-cha-cha. Ooh, my baby couldn't do the cha-cha-cha. I told her not to worry, they'd play some other dance. But we sat there for an hour and a half, and we never got a chance. For every song they played was the cha-cha-cha. Every song they played was the cha-cha-cha. Tom Dooley, three for two, cha-cha-cha. Ooh, every number was the cha-cha-cha. I told her not to worry, there's only one thing we can do. Baby, if you let me take you by the hand, I'm gonna teach this dance to you. Then I told her one, two, cha-cha-cha. Ooh, one, two, cha-cha-cha. And up now, cha-cha-cha. Baby, and back now, cha-cha-cha. That's right, turn now, cha-cha-cha. All right, let's cross now. Ooh, I taught my baby how to cha-cha-cha. We kept on dancing, and was I surprised, for you see, after we practiced for a little while, she was doing it better than me. likes the cha cha cha. They do it one, two, cha-cha-cha. All right, one, two, cha-cha-cha. And up now, cha-cha-cha. All right, back now, all right, baby, let's cross now, and turn now. Adesso un cia-cia-cia al 333-180-9494. Stiamo aspettando i vostri sms. Qual è il vostro ballo preferito, ad esempio, oppure quello che più preferite dire per questa giornata di venerdì 15 novembre in compagnia della vostra coppia di lunghi per iniziare il weekend. Anche se manca qualche ora, facciamo finta di essere già in aria di weekend. Allora, due brani scanzonati per aprire la nostra playlist. Però ricordo che Sam Cooke ha scritto anche canzoni molto importanti dal punto di vista dell'impegno sociale. A Wind Is Gonna Change, quella, sì, era anche parte attiva nel movimento per i diritti civili, l'American Civil Rights Movement. Infatti proprio grazie alle sue capacità musicali riuscì a creare questo legame tra, insomma, il pubblico di colore e quello bianco, rivolgendosi proprio al pubblico bianco, perché, sì, come dicevi, sì, tu ricordavi, sì, la comunicazione è fondamentale per creare un legame, abbattere ogni barriera. Sì, assolutamente, soprattutto se si pensa che un pensiero del genere non solo è molto attuale, è addirittura all'avanguardia, cioè nel senso che l'appartenenza, il senso di questa realtà di essere per forza legati a un certo tipo di pensiero e chiudersi in se stessi, anche se si è la parte più debole, porta ovviamente a una sorta di razzismo alla rovescia, che per combattere il razzismo in sé è assolutamente sterile. Sam Cooke diceva una frase molto bella: io voglio che i miei concerti ci siano un sacco di bianchi. Questo per aumentare l'empatia. Io la penso sempre male, sono un noto complottista, secondo me la CIA non era molto felice di questo. Ah no, ma infatti sono famosi i cantanti che hanno cercato proprio di unire bianchi e neri nelle piste da ballo, e spesso c'erano i poliziotti che dividevano proprio i bianchi da un lato e i neri dall'altro, non potevano ballare insieme. Già, per dirti, e pensa uno che invece va a dire no, devono ballare insieme, è molto più grave che uno che dice no, teniamoli pur separati, esatto, anche se è nero, hai capito? Quindi il messaggio era veramente importante, come ripeto, addirittura importante per questi momenti. Tu non sai che ai concerti di Sam Cooke dovevano chiamare le forze dell'ordine per le donne? Addirittura? Sì, perché era questo ragazzo di colore bellissimo, tra l'altro un uomo meraviglioso, fascino, sì, un fascino incredibile. C'erano delle scene un po' di queste casalinghe conservatrici disperate che altro che il rock and roll che lanciava le mutandine, è arrivato molto prima. sì, queste qui proprio perdevano ogni senso della teenager e volevano assolutamente farsi un viaggio con questo bellissimo cantautore, padre fondatore del soul. Purtroppo un, dicono, incidente, fra l'altro sotto Wonderful World, scusate un attimo. Biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know. Bella questa conduzione dove ogni tanto... Sì, infatti preparatevi, perché so già che Willy e il suo dito sul cursore non resisterà ogni tanto a... Sì, ogni tanto salterà avanti e indietro per far ascoltare qualche brano fuori scaletta. No, dicevo, la fine è tragica, infatti l'età è giovanissima, l'11 dicembre del 64, lui nasce nel 31, quindi si fa presto a fare i conti, viene ucciso da una proprietaria di motel con due colpi di fucile, in quanto lei, portata davanti al tribunale, si giustificherà dicendo: stava stuprando una donna bianca. Adesso, che Sam Cooke abbia bisogno di stuprare una donna, sì, insomma, risulta un po' dubbia la cosa. Risulta, anzi, molto dubbia, chiaramente. Quante donne, anzi, cadevano ai suoi piedi, tranquillamente. Piedi, assolutamente. Quindi diciamo che la versione è stata ovviamente accettata immediatamente, in quanto lui nero, anche se diciamo fosse scomparso in maniera, in una circostanza alquanto dubbia, si sapeva che i morti di colore non facevano assolutamente rumore. In più era un personaggio scomodo. E la storia è stata questa, è la più grande voce, padre fondatore del soul, purtroppo ci ha lasciati giovanissimo. Ci ha lasciato anche dei grandi capolavori come Wonderful World, come tanti altri di cui abbiamo parlato. Gli diamo un saluto anche noi, comunque sia, insomma, nell'etere, se ci sta ascoltando, con questo bellissimo viso si farà una risata. Una grande risata. Sì. E parlando e continuando a parlare di rispetto, invece, passiamo al grande Otis Redding, che ha ha scritto questa grandissima, questo grandissimo brano Rispetto, che ha ripreso pure Aretha Franklin, convergendo però dalla parte opposta il significato dal maschile al femminile, perché Otis nel testo dice ovviamente che il rispetto deve essere verso l'uomo, quindi devono tutti rispettare l'uomo di casa, e poi, sarà bello invece vedere che diventerà Aretha, con Aretha Franklin, un l'inno delle femministe di quell'epoca. Sì, assolutamente, è molto particolare questa cosa, ma è molto particolare anche la risposta che darà Otis Redding, che sarà: io ho scritto una bellissima canzone e una bellissima ragazza me l'ha stravolta. Quindi, diciamo, vi è un po' un senso, non dico della sconfitta, perché non è una sconfitta, però vi è un senso di giustizia. Sì, di giustizia. Capisco Otis, perché davanti a Aretha Franklin anch'io, insomma, avrei sentito un po' di timore della serie. Ho scritto un bel brano, tu mi vuoi rubare anche, no? Mi vuoi rubare anche il premio, il significato. Beh, noi ce l'ascoltiamo e diamo il benvenuto a Otis Redding nella nostra playlist. I've been loving you too long to stop now. You were tired and you want to be free. My love has grown stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't wanna stop now. Oh. With you, my life has been so wonderful. Stop now. You were tired and your love is growing cold. My love is growing stronger as I Ed eccoci qua rientrati sui 103.1 e iniziano ad arrivare i primi messaggi. Oh. Grandi ragazzi, mi state esaltando. Aspetto Marvin Gaye, il mio preferito. La tua Shooting Guard non troppo preferita, London. Non è vero. Che dice che oggi è in mezzo ad un gran casino, ma meno male che ci siamo noi che lo teniamo caldo. Assolutamente lo teniamo caldo, e poi soprattutto lui è una grande shooting guard, e non è assolutamente vero che non sono così favorevole al suo modo di giocare a basket, perché tutti i playground che abbiamo fatto assieme, cari London, dovresti ricordare quanti bei momenti e quante bocce ti passavo scaricando fuori per i tuoi tiri, e quindi è altro che, tu sei uno delle mie point guard preferite. Bene, noi andiamo avanti con la nostra playlist, ringraziando London per gli sms e ricordando che il 333-180-9494 è pronto ad accoglierne tanti tanti altri, oppure la pagina Facebook. Ah sì, assolutamente, ricordatevi Special Twice su Facebook e godetevi le immagini che sto postando, ascoltando, perché hanno un filo conduttore che ovviamente se andate sulla pagina capirete qual è. Sì. Allora, abbiamo cominciato a parlare di un personaggio fondamentale, altrettanto sfortunato fra l'altro, il grandissimo Otis Redding. Sì, legame con Sam Cooke, proprio perché fa un omaggio a questo grande maestro del capolavoro di Otis Redding, Sing Soul, che è appunto il disco del 66, questo grande omaggio al suo maestro, che riesce così ad alternare sapientemente ballate un po' soffici con ritmi però anche belli infuocati, e un inno al soul assolutamente. E purtroppo sua vita si è conclusa un po' in modo particolare, perché prese l'aereo sbagliato, sì. Non è arrivato a destinazione, si è salvato solamente appunto uno dei Booker T and the MGs. Non lo invidio per niente, perché insomma riuscire a salvarsi da una situazione insomma del genere, chissà cosa ti rimane nella testa dopo aver visto delle robe del genere. Però meno male si sarà consolato con le canzoni di Otis, sicuramente. Sì, del quale lui è stato anche partecipe, fra l'altro. I Booker T and the MGs accompagnavano spesso nelle trasferte o nei tour questo grandissimo musicista. Un soul che cambia assolutamente pelle con Otis Redding, lo vogliamo spiegare, cara Elisa? Beh, cambia pelle perché, partendo da Sam Cooke, ha un suono un po' più aggressivo, un po' più legato al sud, ma con Otis sì, certo. Il soul di Sam Cooke era decisamente più pop e urbano, mentre invece quello di Otis Redding è un po' più carnale e un po' più caldo. È un po' più caldo e si sposta quasi verso la campagna, possiamo dirlo. No, si sposta verso la campagna, del resto poi le provenienze erano quelle. Insomma, io sto facendo, intanto che parliamo, preascolto, ti rendi conto? Ma tu guarda, ormai sei diventato un genio tecnologico. Io sto facendo preascolto intanto che te stiamo facendo due chiacchiere. È un preascolto di sottofondo che anzi abbassi. Sì, è un preascolto di sottofondo che è un effetto che dà una cacofonia incredibile. Perché tutto ciò? Perché in questo CD, che voglio mettere per noi solo prodotti originali, ovviamente, non c'è la regolare progressione dei brani. Sono mashup, fantastico. Insomma, vi voglio fare ascoltare questo brano che ho presentato in precedenza, poi ho fatto un refuso incredibile perché ne è partito un altro. Vorrei provare a farvi sentire il Respect nell'interpretazione di Otis Redding, però non lo riesco a beccare. Allora, vediamo se ce la faccio a questo giro, vediamo se questa. No, neanche stavolta. Mamma mia. Vabbè, insomma. Allora, sai cosa facciamo? Vediamo se riesco a beccare. Citynon. Allora, ci proviamo. Per Citynon, però, devo fare un cambio. Intanto, tu, Elisa, non so, intrattieni il pubblico. Di qualcosa. Sì. Racconta, non so com'è il tempo. Riscalda il cuore di London. Sì, ma infatti, guarda, sto pensando che meno male che almeno qualche cuore lo scaldiamo e qualche anima soul si riscalda grazie a questa puntata. Ricordiamo che potete mandarci un messaggio al 333-180-9494, raccontateci un po' qual è, cosa riesce a scaldare la vostra anima. A noi sicuramente il sole. Ricordo che non siete all'ascolto dell'era del Moros. Perché sì, infatti spesso c'è uno scambio di tematiche. Di identità. Sentiamo. Questa, facciamo il Citynon, The Dock of the Bay, che non se l'è neanche goduta, poveretto, perché è uscita tre giorni dopo la sua scomparsa. Dopo noi andiamo in pubblicità e poi rientriamo, a fra poco. Watching the ships roll in, then I watch them roll away again. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide. My home, Georgia. dietro con Otis Redding alla forma dell'acqua con lo Special Twice, è voluto proprio per rendere l'idea di quanto caldo è questo suono, quanto è coinvolgente sia l'immagine del soul che esce dalla parrocchia in maniera gospel e melodioso, e ben venga, e a me piace tantissimo, ma c'è anche la parte più ritmica e soprattutto più intensa, quella forse ritenuta più profana. Molto profana, infatti proprio coloro che uscivano dalle chiese cercavano, no, di confondere un po' in modo blasfemo, come veniva visto dall'esterno, queste musicalità insomma tipiche da chiesa con un po' di rhythm and blues, sacro e profano, il demonio, è assolutamente, si dice così in maniera scherzosa, diavolo e donna. Beh, sicuramente Aretha Franklin ne sapeva una più del diavolo per quanto riguarda la bella musica e il soul in particolare. La regina del soul veniva improvvisamente chiamata, beh, non tanto improvvisamente, perché i primi Grammy da lei ricevuti sono infiniti. Infiniti, e poi diciamo che già a 14 anni aveva scritto una canzone, già riusciva in qualche modo da giovanissima a produrre, magari ha iniziato un po' lentamente, con un po' di difficoltà, insomma ha avuto due bambini in età adolescenziale, quindi ha sofferto molto, però è riuscita a farsi notare, anche perché voglio dire, non si sa perché non era riuscita a farsi notare prima, visto il talento. Assolutamente. Però meno male che è andata bene. 52 album pubblicati. Sì, un'infinità. 52, e tra l'altro è la prima donna ad aver scalato la prima classifica dei 100 artisti più bravi al mondo, arrivando alla nona posizione. Nella top 10, quindi. Sì, esatto, è la prima donna in assoluto. Onore al merito, sicuramente anche più che 9. Aretha Louise Franklin nasce a Memphis, tra l'altro, guarda caso, una città a caso importantissima per la musica, la città di Memphis, nel Tennessee, il 25 marzo del 1942. Ma soprattutto l'importanza è che nello sviluppo all'interno di queste sonorità sia anche un approccio da parte della grande Aretha con il rhythm blues, il pop, il rock and roll e il jazz addirittura, ed è anche una grande pianista. Una grandissima pianista, e meno male che è riuscita a riportare, per quello che Otis la odiava, perché prendeva un po' di cover, però è vero, riusciva, è vero. Allora, 4 ottave di altezza canora, e in più dava una personalità in ogni brano che interpretava, e quindi rivoluzionava veramente, e diventava sua qualsiasi cosa, con questa voce calda e proprio il soul femminile, sì, più sì, importante in assoluto. Ringraziamo, scusami Willy, anche Laura che ci ha scritto e ha detto che con una giornata così uggiosa la nostra musica aiuta a ritrovare il sorriso. Grazie Laura. Bello, brava, grazie Laura, l'ascolto. E salutiamo anche da chi ci ascolta da Basilea addirittura. Che meno male che anche lì sicuramente pioverà, almeno riscaldiamo un po' l'ambiente. Magari là ci sono 60 gradi. Ma ho miei dubbi. No, forti dubbi. Allora, dicevamo, ma non si trova mai Respect, non si trova questo CD a tutti i titoli incasinati. Per me era un segno del destino. Non l'hai trovato? No, perché dobbiamo farlo cantare da Aretha. Ah, ecco. ti ricordi con questo brano, uno su tutti, la colonna sonora dei Blues Brothers che noi citiamo ogni volta. Beh, sì. ognuno ha i suoi classici. Ognuno ha i suoi classici e noi Blues Brothers dobbiamo citare appena c'è occasione. No, ogni puntata. Noi mi faremo una testa così. Sì, e ringraziamo anche Ebe. Eh sì, ci manda un messaggio scrivendo sempre musiche stupende. Ebe in ascolto dice grazie e noi ringraziamo questa volta. Rimandiamo i ringraziamenti. Elisa spiega il nuovo modo di fare playlist. Allora, vogliamo fare una specie di ruota della fortuna, solo che sarà la ruota del disco. Sì, praticamente sì. Willy impazzirà con un preascolto casuale, visto che anche il disco è fatto apposta perché... Ne ho trovata una che potrebbe essere bella, Chain of Fool. Chissà, boh, però ne ho una in particolare, adesso vado a caccia, tu continua a chiacchierare, però ti ascolto e collaboro. Sì, e non sì, no, stavo dicendo appunto ai nostri carissimi ascoltatori che la selezione oggi non sarà più tanto ponderata e... è ponderata, ma facciamo finta che siamo così un po' al mano libera, no? Sì, che in realtà sì. Sappiamo improvvisare come nessun po' mai e quindi riusciremo così con questo preascolto in modo casuale, faremo ascoltare un brano e poi ne parleremo ovviamente in queste due ore. Bella, un pochino la ascoltiamo. Spirit in the Dark, bellissima. Balliamo, eh. Balliamo. I'm getting a spirit in the dark. Keep on moving. Gian Bologna nel nostro studio di Radio Città Fujiko 103.1 e all'ascolto per voi con lo special Twice del venerdì e la vostra coppia di lunghi che improvvisamente si trova la pelle color ebano, magari. Magari, visto che dietro di te il tempo sta oscurando, spero che non sia un cattivo presagio. No, vogliamo però così ricordare che la nostra stagione preferita è l'estate, siamo nati con l'estate. Siamo nati con l'estate, siamo figli delle stelle, delle stelle d'estate. Però quando si sta sotto al bel cielo stellato però con la maglietta a maniche corte perché non si e i bermuda e l'infradito assolutamente è per quello che ci piace il sol perché ci scalda e quindi l'inverno sole vedi mamma mia. Ma ascolta, perché non ricordiamo il nostro numero telefonico, perché ho visto che stanno arrivando messaggi a più non posso. Allora guarda, hai 25 secondi per fare il tuo discorsino 22 21 e poi dopo andiamo col prossimo. prossimo brano che è in sequenza questo, che è bellissimo. Vai. Ah, perfetto. Allora mandate un messaggio al 3318094 94. Ascoltateci, attenzione, potrebbe essere, se vi state sotto i 15 anni potrebbe causare problemi di stomaco. Allora possiamo andare, vai. Don't play that song. Questa è sempre lei, è sempre Aretha Franklin sui 103.1, in sequenza esattamente con questo brano. Pensate un po' che DJ che siamo. Intanto che torniamo in diretta accompagnati da un hand clapping a tempo esattamente con Don't Play That Song, che fra l'altro è una canzone tristissima. Eh sì, non sembra, non perché sembra. Da questo ritmo coinvolgente invece è molto straziante. È abbastanza, sì. Come anche tanti altri brani che era interpretato, come ricordavo prima, Change Is Gonna Come, che in realtà è un brano che rifece Sam Cooke prendendo spunto però da Bob Dylan, perché sì, rimase colpito dal fatto che un bianco riuscisse a fare un brano sul razzismo. Gli ha dato la risposta. Sì, esatto, è stato più un botto e risposta, sì, perché aveva risposta. Colpito proprio il fatto, diciamo, come un bianco riesce a spiazzare più di... Ma secondo, io l'ho interpretato molto così, proprio anche ascoltando i testi dei due brani. È un messaggio molto più ottimista, quello di Sam Cooke, come del resto è la sua era la sua personalità, che ti dicevo, no? Che raccontavamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori, la contaminazione, la comunicazione. Sì. Mentre invece quello di Bob Dylan è più un discorso che lui fa con un amico, dicendo: ma quale futuro ci sarà per noi? La risposta quale sarà? E la risposta sarà nel vento, blowing in the wind. Sì. E Sam Cooke dice: il vento cambierà. Il vento cambierà, cioè, sì, esatto, c'è un cambiamento in atto. C'è un cambiamento in atto, il vento cambierà. È un po' più positivo, decisamente più positivo. Bob Dylan rimane più: ma sto vento dove ci porterà? Ma sti bianchi sa? Sono lagnosi. Pensa se mi sente morostico, ho appena dato del lagnoso a Bob Dylan. Cioè, la rivolta, vengo cacciato immediatamente dall'era del morto. Allora parliamo di un bianco nero, nero bianco, che ha dato anche lui uno spartiacque unendo invece, sì. Battendo ogni tipo di muro di razzismo. Sto parlando di Ray Charles, soprattutto perché aveva le giacche bianche. Doveva staccare, e forse proprio perché non vedendo non si poneva neanche il problema. Ma chi se ne frega, anzi aveva anche buon gusto nelle donne, scegliendole sentendo il polso. In base al polso capiva se era bella o no una donna. Pensate, pensa il buon gustaio, pensa un po'. E soprattutto meraviglia molto il fatto che ho letto e mi sono informato, ma è un classico, diciamo, per gli appassionati di musica afroamericana. Lui non è cieco dalla nascita. No, in teoria dopo uno shock e insieme, esatto, diciamo, anche una malattia che colpiva, sì, proprio gli occhi. Uno shock incredibile, una sorta di glaucoma. Sì, esatto, una combustione curato, insieme. Si dice che in realtà lui vide morire suo fratello e quindi, sì, insieme poi ovviamente al glaucoma eccetera perse la vista. E poi ovviamente non si è curato adeguatamente. No, anche perché viveva in un villaggio. Allucinante, condizioni allucinanti. Lui addirittura viene, per così dire, questo è un bambino cieco, aspetta che lo diamo a una coppia di amici. È andata così. Questo è un bambino cieco, allora lo diamo a una coppia di amici. Questa coppia di amici, fortuna vuole per Ray, che sono grandi appassionati di musica. E meno male che gli insegnano a suonare il pianoforte. Ma non c'è bisogno di insegnargli, le ne regalano uno giocattolo da piccolissimo per distrarsi un attimo e lui diventerà incredibilmente dotato, tanto più che questa famiglia povera improvvisamente si ritrova qualche soldino in più perché lui suonava nei bar a $4 all'ora. Ed è proprio lì che scoprirono questo talento e inizialmente cercarono anche di fregarlo perché pensavano che questo fosse un po', no, un tontolone della sera. Adesso lo freghiamo noi, invece fortunatamente ha saputo tenere la testa alta. Grande imprenditore di se stesso, anzi personaggio anche fra l'altro molto controverso per certe sue dichiarazioni molto forti, però assolutamente importante in questo caso, a differenza di Sam Cooke, Ray Charles, padre fondatore, che lo abbiniamo al già citato Sam, con la grande differenza che le radici blues erano decisamente più profonde. Sì, se tu inserisci Sam Cooke come padre, come pioniere, io, certo, ci metto a forza Ray Charles, certo, come padre in assoluto, per una questione ovviamente personale, certo, di gusti. Sì, ma adesso facciamo a pugni dopo. Va bene, manda la canzone che mi scaldo. My coffee in my favorite cup. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's alright. That's why I know, yes I know. Hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah. Don't you know I just love her so. She's my little woman way across town. Thank you. rientrando in diretta alle 11.36 perché il più grande sole è solo su Radio Città. Fujiko ovviamente, 103.1. Cara Elisa, il tuo grande Ray, il nostro grande Ray. Il nostro grande Ray, Blue Ray, no, è solo Ray, è lui. E beh, sentite anche queste vocine un po' ansimanti, già ai tempi, scandaloso. Invece ha fatto comunque la storia, perché anche per questo, insomma, è riuscito, no, a dare quel... Ecco che parte la ruota del disco! Well, now, baby, tell me, do you do? Si fa un po' fatica, sì, sì, un pochettino. E pensare che quando abbiamo fatto lo speciale sul Jazz Festival, anche Ray Charles figurava tra gli ospiti nella nostra bella Bologna. E meno male chi ha potuto partecipare a quell'evento e godersi lo spettacolo. Come la mamma di Charlie Marchesini. Esatto, che ci postò la... oggi, infatti, siamo un po' offesi. Molto. Ringraziamo ovviamente Zagor lo Spirito, che Zagor è sempre in è tornato perché era un po' che... Noi eravamo molto in pensiero per questa cosa, ma io non vorrei che lui, dai, mi piace e poi non si sta ascoltando. No, tu dici che ci ascolta. Zagor, scrivi immediatamente. Salutiamo anche Barbara Gambino, che anche lei dice che piace. Bene, e speriamo ovviamente di averne anche l'ascolto. E al 333-1809-494 per i vostri sms. Volevo dirti una curiosità molto molto particolare, che prima ovviamente per necessità, e questa necessità diventa incredibilmente un motivo di successo, gli occhialoni. Neri. Gli occhialoni, come Stevie Wonder. Stevie Wonder ovviamente, ma questo modello di occhiali, e soprattutto riportati in ambito di scena, sono per Ray Charles qualcosa di eccezionale. Lo stilista che li ha ideati e inventati, ricordo che fece un sacco di soldi proprio per le motivazioni di copyright, perché guardate un po' che sorta di testimonial che vi porto per questo bellissimo oggetto. In effetti gli occhialoni alla Ray Charles rimangono tuttora un'icona importantissima. Volevo leggervi il nome dell'inventore degli occhiali di Ray Charles, ma purtroppo non lo riesco a trovare. Prometto che se più avanti riesco a avere informazioni vi dirò come si chiamano questi particolari occhialoni neri riportati da Ray Charles. Sì, tra l'altro occhialoni che per esempio con la parte country hanno poco a che fare, visto che appunto lui riusciva a commissionare queste sonorità jazz un po' country, perché appunto veniva dal sud, e uno si aspetta, no, un certo tipo di... Questo è un'altra realtà. Secondo me le sonorità dal punto di vista country è solamente un'idea geografica, proprio perché veniva da Albany, assolutamente, probabilmente. E poi questa George on my mind, che dal punto di vista del messaggio che si lanciava a proposito dell'impegno sociale, è stato qualcosa di fenomenale, mia cara Elisa. Allora, lui suonava in un gruppo all'inizio che si chiamavano The Florida Playboys. Oh signor. E in questo periodo iniziò a utilizzare i suoi occhiali creati da Billy Stichels. Ecco, abbiamo trovato. Riparti con la ruota del disco. Riparti con la ruota del disco. Give you all my money. Tell the day I die, because I grandi critici musicali hanno paragonato l'uso della sua voce a un sassofono. Ah, beh. Dicevano. La sua voce può tranquillamente sostituire un sassofono. Sì, ma è anche un po' graffiante, sì, quindi ci sta perfettamente. Cara Elisa, ascolta, io direi che possiamo mandare un abbraccione, un salutone a Ray Charles, che anche lui se la ghignera molto a pensare a tutte le robe che stiamo dicendo, però assolutamente vere e soprattutto dettate da una grande passione per la black music che ci accomuna, direi. Sì, non abbiamo detto nulla di inventato, falso. No, assolutamente, l'unica improvvisazione che vi è nella ruota del disco. Sì. Che creerà un po' di problemi alla playlist finale. Sì, esatto, però... di solito noi ci piace, insomma, mettere sulla pagina Facebook la playlist del nostro Special Twice. Oggi sarà un po' magari in ritardo perché dobbiamo un attimo capire cosa abbiamo fatto. Mettiamo per bene le cose, tutte come devono essere fatte. Beh, abbiamo parlato più di uomini che di donne, quindi adesso con una bella tripletta possiamo recuperare. Meno male, ma so, dico, oddio, cosa vuole fare? Invece sì, siamo perfettamente allineati. Salutiamo Ray Charles e diamo il benvenuto a una grande realtà di cui abbiamo fatto uno dei nostri primi Special Summer. È una realtà che si chiama Motown, una realtà che nasce a Detroit. Perché questa voce un po' più seria all'improvviso? Perché io ho una vera e propria devozione per questa casa discografica, ritenuta per molti, sbagliando gravemente, qualcosa di sbiadito, qualcosa che non è poi così legato alla realtà black. Beh, nulla di più errato. Ricordo che ai tempi in cui facevo il professionista ed ero in contatto con molti atleti di colore americani che mi dicevano: assolutamente, noi quello che ascoltiamo come easy listening è solo e unicamente Motown. E infatti, secondo me, questo è. Le altre realtà più southern, legate più, diciamo, per farvela breve, a un Porretta Soul Festival, purtroppo non me ne vogliono, ma ha qualcosa molto più a che fare con il rock. E questo è. Beh, però intanto possiamo dire che il soul, il blues, è da lì che nasce il rock, quindi in realtà Noi stiamo parlando, insomma, della parte... Del nucleo, insomma, cose molto specifiche. Sì, quel nucleo che poi esploderà creando poi tutti gli altri generi. Certo, è assolutamente Motown, però perché questa importanza? Perché è stata proprio un genere a sé. A un certo punto, ogni label, poi ogni etichetta aveva, insomma, la sua il suo cavallo di battaglia, come le Supreme per la Motown. Certo, e il soul in quel periodo non si chiamerà più soul, ma proprio Motown. Io ascolto Motown. Sì, e questo poteva essere anche riguardo, per esempio, alla Philadelphia Sound o alla Atlantic. Sì, Atlantic, assolutamente. Stax. E ricordiamo che la Motown riuscì a diventare così tanto famosa perché Berry Gordy, che era appunto, diciamo, il fondatore, prendeva però, insomma, una via un po' autoritaria, nel senso che bacchetta alla mano e poi indicava piano piano a ogni artista quello che doveva fare. Sì. Meno male che poi arriverà Marvin Gaye che si ribellerà da questo gioco. Così. Però diciamo che non deve essere stato facile bacchettare uno Smokey Robinson, che fra l'altro diventerà presidente della label, lo stesso Marvin Gaye, lo stesso Stevie Wonder, degli artisti come Otis Williams. Per cui diciamo sì, l'aspetto imprenditoriale e l'aspetto autoritario è una caratteristica negativa della Motown, però penso che non abbia influito più di tanto per quanto riguarda la qualità. Selezione per la Motown, si potrebbe andare avanti fino a stasera a mezzanotte per quanto mi riguarda, però giustamente Elisa ha detto finalmente un po' di donne, e di donne ne arrivano tre e sono grandissime. Sai cos'è che mi fa impazzire quando mi dicono ma You Canary Love, il brano di Phil Collins? No, insomma, queste dolci voci angeliche che hanno segnato la Motown a livello femminile e non solo, e meno male che sono esistite. E ricordiamo che originariamente in realtà nel 59 si unirono con il nome de Primette. Le Primette. Beh, ma ne sai a tronchi a tronchetti proprio. No, tronchi di sequoia. Sì, avevano un repertorio che includeva non solo insomma il soul, ma anche un po' il classico tipo da Broadway, un po' da disco. Teatrale, molto teatrale, sì, anche sì, nelle sì, loro performance, per i loro vestiti. Dopodiché sono stati di grandi ispirazioni per la Philadelphia. Sì, la moda fondamentale, infatti erano molto eleganti, si facevano notare nelle loro rappresentazioni. I ballettini, ricordiamo, sì, i fantastici ballettini che riunivano con quei microfoni a zera. Belli. Io dovevo nascere in quei tempi lì. Vabbè, adesso riparliamo poi di Midnight Imperi di Woody Allen. Beh, sì. E rifacciamo. Allora, noi abbiamo i Blues Brothers, Midnight in Paris e Little Sunshine. Esatto. Noi abbiamo quei film lì. Beh, di resto, ognuno ha i suoi classici. Come classiche sono ormai diventate le voci di Florence Ballard, Mary Wilson e la grandissima, infinita Diana Ross. Personaggio anche lei molto controverso, ma bandiera della Motown. Bandiera della Motown e anche dei diritti civili, come sì, ovviamente anche le Supreme. Chi l'avrebbe mai detto, aggiungo. Addirittura, infatti è lei proprio che presenziò davanti la regina d'Inghilterra cantando appunto il brano famoso dell'epoca, che adesso mi sfugge. Ma è il discorso che fece dopo. Il discorso che fece dopo, dicendo appunto: io sono qui, sono nera, voi siete bianchi, mi avete chiamato perché siamo diventate famose con questo brano, però in realtà io vorrei parlare di questa possibilità che sono qui solo perché sono una cantante famosa e ho un successo planetario, ma in realtà il mio colore della pelle, una volta uscita da questa stanza, mi ricorderà che insomma il divario esisterà comunque. E quindi una denuncia sociale molto importante, detto da una grande diva del mainstream che assolutamente si tristemente elevava rispetto alle altre persone afroamericane, perché Diana Ross, ricordo, fa anche una cosa alla quale io sono particolarmente legato, proprio per una rivincita della mia musica nei confronti della musica dei Visi Pallidi. Ovviamente non è una gara ed è più un discorso così gogliardico, però You Can't Hurry Love scalzerà i Beatles dalla prima posizione delle charts. Ma infatti a livello femminile, diciamo che il gruppo speculare dei Beatles, a livello proprio di impatto. Le prime di impatto e tanto più ci sono. E anche a livello di moda, perché ricordiamo che come i Beatles influivano, come dicevano, quasi come Gesù, sulle mode adolescenziali, le Supreme allo stesso modo riuscivano a colpire nel centro proprio. Senti chi senti chi sta arrivando. È vero che ti hanno dedicato questa canzone? Sì, infatti meno male che ancora qualcuno dedica brani di questo spessore. Vabbè, ne sapremo di più tardi. E come ogni scadenza, London ci scrive appena sente il grande Marvin Gaye e ci scrive: yeah, let's get it on. Povero Marvin, è stato pestato a sangue nell'infanzia dal padre violento, appena ha provato a restituire, ha provato a restituirglielo, gli sparò. Lo so. Purtroppo questo storia conflitto triste tra padre e figlio andò a finire veramente molto male. Sì, una tragedia incredibile, soprattutto per lui prima di tutto e poi per il mondo della musica, perché nel mio altare, devi sapere Elisa, che c'è scritto, inciso sulla pietra: se Sam Cooke è Dio, Marvin Gaye è il suo profeta. Ah, quindi questo sicuro. Questo per me è sacrosanto. Marvin Gaye, il grandissimo, che fa una fine altrettanto tragica. Ricordo che inizia come percussionista nelle file dei gruppi della Motown e non considerato più di tanto anche per colpa di un carattere assolutamente ribelle e testardo. Molto ribelle, molto testardo, però anche un pregio, perché se non era così testardo non poteva impuntarsi all'interno della Motown e dire: io ho in mente qualcosa nella mia testa di musicale, non voglio limitazioni, lasciatemi fare, se non mi lasciate fare quello che voglio io me ne vado. Come facevano dopo questo ricatto, giustamente gli hanno dato carta bianca, e meno male, perché ha creato What's Going On, un album fantastico davvero. Il primo concept album di tutti i tempi, il primo concept album della storia è di Marvin Gaye, è What's Going On. Ho deciso di tenerlo come scaletta perché, come tu puoi ben sentire, è molto organizzato. Sì, sì, sì, ma infatti poi chiederemo agli ascoltatori cosa abbiamo messo. Esatto. Sarà la prima volta che la playlist la farete voi, esatto. Quindi mettetevi su Facebook e iniziate a preparare. Allora, no, dicevo che per fare un percorso e rendere un ascolto di Marvin Gaye del suo periodo, diciamo così, di esordio e arrivare a What's Going On, a questo percorso ci mettiamo in mezzo, guarda, coi tempi siamo giusti giusti, la pubblicità. Ah, perfetto. Per cui, Stubborn Kind of Fellow, un tipo di ragazzo bastardo, il suo è bastardo, testardo. Beh sì, diciamo Beh, che però, era cattivello. Però era cattivello anche, quindi come inizio fino ad arrivare al rientro con la grandissima What's Going On, per cui siete obbligati a restare con noi. A dopo. just far too many of you die. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. Ed eccoci rientrati sui 103.1 Radio Città Fujiko, La Forma dell'Acqua, questo special Twice. Ormai quasi, se mettessimo una webcam potrebbe essere più famoso il nostro fuori onda. Sicuramente. Perché facciamo certi balletti che sì, ve li raccomandiamo proprio, però... Io pensavo di essere dei Love Radio Live. Ma infatti lo stavo per dire, questo Marvin Gaye che ricorda davvero la domenica sera con I Love Radio Live, che apri ogni domenica dando sempre questi toni colorati e suadenti, caldi, suadenti, come fa Marvin Gaye in questo album. Dalle 19 alle 20 con I Love Radio Live, per appunto passare una domenica sera prima di cena assolutamente suadente, senti. Sì, è il suadente del... ecco, vai con la nuova ruota del disco. Sai chi è questo? È Michael Jackson bimbo. No, veramente? Sì. Sai che prendiamo due piccioni con una fava, perché facciamo ascoltare anche... Facciamo una citazione a Bill Withers. Ah, vedi? Perché è Into Sunshine, rifatta da Michael Jacksino. Ah, il Jacksino, che infatti mi fa un po' strano sempre vedere questi bambini che interpretano questi brani un po'... È vero. Un po' suadenti, un po' così. Senti. orchestrale dietro degli archi già annunciava un arrivo della Filadelfia, una cosa così all'avanguardia, tra l'altro, questo brano molto cantautorale del grandissimo Bill Withers, in questo caso riproposto con l'accompagnamento orchestrale e la voce di un giovanissimo Michael Jackson che inizia la carriera in Motown. Ma anche Michael Jackson, dai, dovremmo inserirlo in una delle nostre puntate perché ne vale la pena, insomma, può piacere, può non può piacere, può essere un po' troppo pop, può essere un po' troppo sentito, però ne vale la pena. Posso dirti una cosa che rimanga tra noi due? Sì. Tanto non ci sente nessuno. No, dimmi. Non lo dirò a nessuno. Io dimmi. Adoro Michael Jackson. Ma l'avevo intuito. L'avevo visto con la webcam. Sì, mi piace fare il moonwalking quando sono da solo, fra l'altro, e non solo, e mi piace subito l'immediatezza della sua scrittura e soprattutto adoro la capacità immediata di portare l'immagine all'interno della musica, ovviamente mainstream. Sì, ma mi ricordo, non me lo scorderò mai, mia cugina che mi diceva che quando il suo nonno andò in America e i suoi cugini iniziarono a sentire Michael Jackson, gli mandarono la prima cassetta, quell'audio, dicendo a mia cugina: ascoltati Michael Jackson perché qui è fresco ma ha delle grandi potenzialità. In Italia ovviamente ancora non era arrivato nulla, quindi ancora la prima cassetta. Lui è un grandissimo, adesso a parte gli scherzi, questo è un grandissimo, indipendentemente da quello che c'è stato scritto, detto, che poi non so fino a che punto e quanto sia stato romanzato. Per me lui addirittura ci marciava. Sul fatto, io sono solo poveretto, mio papà mi picchiava qua là su e giù, io non so fino a che punto sia vero, un po' con la testa c'è rimasto. Sì, quello sicuro, anche perché spesso quando gli artisti iniziano ad avere già successo, comunque a intraprendere questa carriera da giovanissimi, sì, crescono già nella sua infanzia, non era proprio ben accettato dalla famiglia, dal padre in particolare. In più hai questa vita parallela, perché ovviamente non hai una vita normale quando hai un grande successo, e quindi posso anche aver capito che anche tutte le parole che dicevano riguardo a magari ai bambini, magari era solamente una cosa affettuosa, del tipo: mi ricordo io quando ero piccolo mi è stata portata via l'infanzia, e quindi io voglio avere intorno a me giovani. Infatti, guarda caso, lui, non so, si comprava dei Luna Park. Sì, perché voleva proprio, gli mancava l'infanzia e voleva riportarla nella sua età adulta. Vittima del sistema, secondo me, almeno, però indubbiamente grandissimo personaggio dal punto di vista del mainstream. Grande collaborazione, questa è una cosa che sfugge ai più, con Quincy Jones. Con Quincy Jones inciderà il più bel album pop dell'epoca moderna, secondo me, cioè dal 77 fino ai giorni nostri, che è Off the Wall, dove c'è Just Stop Till Get Enough, che è questo brano dal quale è impossibile stare fermi, e poi soprattutto la dolcissima I Wanna Rock With You, bella. Quella che secondo me è una meraviglia. Quindi quel disco lì rimarrà sempre in ambito mainstream, sto parlando, non in una realtà ricercata o d'avanguardia, sto proprio parlando di una realtà di show business. Diciamo che quello anzi, nonostante non sia più con noi, continua a incassare milioni di dollari. E poi quello che è successo quando fece il primo videoclip degli zombie, di Thriller. Sì. Disco tuttora più venduto di tutti i tempi. Quindi finalmente ti ringrazio, Elisa, perché voglio... Ti ho fatto sfogare. Sì, perché era da un po' che volevo trovare una partner col quale confidarmi e dire: no, guarda, per me Michael Jackson è un grande. Ma è indiscutibile la sua presenza. Però sai, nel mondo musicale. Interpretate queste parole, ma come, tu che vieni da... cosa vuol dire? Secondo me, dal punto di vista dello show business, come dicevo in precedenza, wow, averne. Lo mettiamo insieme a quei personaggi che hanno cambiato la storia di questo palcoscenico, non so, come può essere Elvis Presley oppure Madonna o degli altri. Per me lui è un gradino sopra. Poi... Sì, diciamo che è una musicalità differente, è riuscito comunque a coniugare, è stato un innovatore anche a livello proprio del ballo, come tutti sappiamo, a livello di coreografie, scena, musica, insomma, una commistione che non si può non vedere, insomma. Quindi sfodera le tue orecchie orecchie dalle fondine di prosciutto, come diceva il tuo amico, e sì, passiamo al nostro caro Soul. Torniamo. Ci siamo lasciati un pochino andare su Michael Jackson, anzi scusa Elisa, che mi sono... reinseriremo nella playlist. Quindi, anzi, andate su Special Twice oppure al 333-1809-4, mandateci la playlist di oggi, perché noi non sappiamo cosa abbiamo fatto, ma va benissimo. Però andiamo avanti, perché in questo quarto d'ora la playlist l'ha fatta completamente da sola. Sole ha detto: oh, adesso mettiamo questo e questo. Allora, da chi cominciamo? Beh, io partirei da Curtis Mayfield con Moving Up per riscaldare un po' i suoni. Salutiamo Antonia che ci ha scritto al 333-1809-4 e dice: grande Elisa, non avresti potuto scegliere pezzo migliore per cominciare, e comunque Michael è un grande, grazie, è un grande, sì. Però devo rettificare, perché io ho scelto nel senso che ho, diciamo, autorizzato Willy a mantenere la scaletta, perché appunto il pezzo aveva già precedentemente scelto lui. Io ho solamente detto dai, anzi velocizziamo la playlist così lo possiamo inserire. E saluto anch'io Antonia, la ringrazio per l'SMS. Ci accomuna questa grande passione entrambi per Michael Jackson, e ovviamente grazie per aver scritto al 333 180 9494 per questa forma dell'acqua due volte speciale che sta volgendo al termine. La nostra playlist ricorda che con Curtis Mayfield si fa una piccola citazione al nord dell'Inghilterra. Eh sì, perché dopo il Southern Soul, che si riguarda insomma al sud dell'America, il Northern Soul non è il nord dell'America, ma per la prima volta un genere musicale si riferisce a un paese che è esterno, sì, diciamo, sì, a dove viene prodotto quel tipo di musica. E sto parlando del nord dell'Inghilterra, dove iniziavano a nascere dei club, comunque dei posti di riunione dove veniva appunto trasmessa e era fruibile la musica appunto del soul nordico. E infatti venne anche inserito come etichetta proprio nelle case discografiche e nei negozi dove appunto cercavano proprio quel tipo di musica, e quindi inventarono questo nome proprio per agevolare la vendita e la ricerca del disco in specifico genere, tanto più che nasce per motivi sportivi. Pensate un po', perché dal nord dell'Inghilterra scendevano verso Londra i fan delle squadre di calcio del nord dell'Inghilterra, e che cosa vi era di particolare da parte di questi ragazzi? Una gran voglia di ballare, e non essendo a Londra non seguivano la London Swinging o tutte le tendenze, erano rimasti legati a quello che arrivava dagli Stati Uniti, in questo caso da Curtis Mayfield oppure dalla Motown, e quindi dicevano: noi vogliamo il soul. Però venendo loro dal nord, un imprenditore molto furbo a Londra aprì un negozio dicendo: ragazzi del nord, ascoltate la vostra musica, il Northern Soul. Sì, anche perché al nord fa freddo, come ci ricorda Maria Grazia, dice che c'è un po' di sole ma con temperature glaciali, quindi la Svizzera, nonostante sia al nord, fa comunque freddo, però ascoltando la nostra musica si riscalda, e meno male. Te l'ho detto che un po' di sole sarebbe arrivato anche a quelle altitudini più che longitudini o latitudini. Allora, 12:19, abbiamo detto che dopo Curtis Mayfield è una piccola citazione al Northern Soul, adesso ci aspetta il nostro Stevie Wonder. Allora immaginiamo occhiali scuri e ancora un grande sole. Eh sì, ovviamente è l'occhiale 2.0, questa sì, è la versione nuova del Stevie Wonder con l'occhiale di Ray Charles, e noi ci ascoltiamo For Once in My Life. E invece io t'ho fregato e ti faccio ascoltare Thursday Heartbreak, che era quella nell'interpretazione di Macy Gray. Ok, come non detto. Buon ascolto, restate sui 103.1. Tuesday heartbreak seemed to be unfair, 'cause you say that you found another man. Tuesday breakout, guess you just don't care, 'cause you found you 103.1 Radio Città Fujicolo Special Twice e Stevie Wonder Talking Book, uno dei dischi più belli, personalmente il più bello, uscito nel 1972, annata magica per la musica On the Corner di Miles Davis e tanti altri all'interno di Black Sonorità. Talking Book e questo brano Thursday Heartbreak, che è stato ripreso da Missy Gray, mi è venuto, a proposito di giovani legate al soul, che magari proporremo in un altro special Twice. Sì, esatto, visto che oggi ci siamo preso la mano e dovevamo continuare tipo con altri 6-7 artisti, ma facciamo lo stesso. Ma ricordiamo che Stevie Wonder, come Marvin Gaye, era un autoimprenditore. Molto più di Marvin Gaye, infatti riuscì anche lui a svincolarsi dalla mano perfida della Motown. Lo fece di forza. Eh sì, e insomma riuscì in qualche modo a riprendere e padroneggiare la propria volontà musicale, infatti meno male che anche in questo caso è riuscito a creare una combustione nuova di musiche, di suoni che possiamo apprezzare, sono tuttora davvero innovativi, nuovi, sì, stimolanti. Tuttora, perché ricordo che il suo fatto di guardare a un ventaglio estremamente allargato di generi ha riportato in auge la black music anche all'interno del rock e del pop, con dei dischi come sono stati quelli pubblicati nel suo periodo più recente. Allora, per questo venerdì 15 novembre abbiamo ancora 1/2 brani, Elisa, dobbiamo giocarceli bene. Giochiamoceli bene, cos'hai nella manica? Aspetta, questo hai scelto tu l'artista, io scelgo il brano. Va bene, io ho scelto i G-Scott Heron. Io ho scelto Madison Avenue e buon ascolto. Dei primi poeti all'interno della black music con Flying Dutch Record, e ricordo che col fido Brian Jackson al flauto hanno scritto anche The Bottle, un brano che praticamente mettiamo in ogni playlist. Sì, esatto, un evergreen come i Blues Brothers. Esatto. Ricordiamo che The Revolution Will Not Be Televised, che è bellissima, una canzone poesia delle sue, che riesce a inserire la poesia e questa melodia che diventa poesia a sua volta, e quindi una poesia nella poesia. È una poesia nella melodia, una melodia nella poesia. Esatto. 27 minuti, noi invece abbiamo una gran fame. Una gran fame, ma siamo ancora in tempo per ascoltare un ultimo brano prima dei saluti. Ricordiamo anche che potete venire a vederci al centro commerciale Andrea Costa. L'angolo delle Marchette. Venite al centro commerciale Andrea Costa il 23 novembre. Sì. Sì, perché qui abbiamo ancora ottobre nel calendario, qui io al muro. Novembre. Sei rimasta indietro. Sì, Stavo per dire ottobre, vabbè, ce l'ho fatta in tempo, però ormai vi ho scoperto l'arcano, quindi niente. Vi ricordiamo che potete vincere fantastici premi partecipando alla caccia al tesoro e vedere i nostri... Oddio, cosa ho sentito? Teniamo bassa perché è tardi. Vai, prosegui, prosegui. Sì, sì, sì, comunque partecipate numerosi perché potrebbe essere, insomma, la grande chiusura vicino al Natale, quindi una playlist davvero con da leccarsi i baffi, che ricorda un po' il Natale, ma non solo, quindi... Vi aspettiamo, la vostra coppia di lunghi ora vi saluta, pronti con armati di forchetta e coltello. Vi salutiamo e diamo un grande saluto con Gregory Porter che ci accompagna in sottofondo con questo fantastico singolo del nuovo album. Noi vi diamo un bacione, sì. Vi salutiamo, Elisa Iacobucci e William Piana, buon appetito e buon weekend. Liquid Spirit, Gregory Porter, ciao ciao. Ciao. Down by the river, dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank.